totale lordo che noi riceviamo, sì, tolte, detratte tutte le spese che sono a nostro carico, se uno lavora seriamente, non è che prenda questa, cioè guadagna, voglio dire, come un caporedattore, al massimo, parlando di giornalismo, o come un dirigente, come un quadro di buon livello, non è, però ha una responsabilità molto più alta. Cioè lei si sta lamentando del suo, si sta lamentando del suo stipendio da deputato, no? Non mi sto lamentando, io però voglio far presente, io mi sto lamentando del fatto che noi siamo considerati persone che non fanno nulla e prendono un sacco di soldi e hanno un sacco di agevolazioni. Se le racconto la mia settimana non le basta la trasmissione. Ma quanto prende lei esattamente? Quanto prende lei esattamente? Guardi, io incasso dalla Camera dei Deputati 15.000 euro al mese. Di questi 5.000 sono la vera e propria indennità, circa 5.000 sono il rimborso delle spese per la permanenza a Roma e per altre spese, e 5.000 sono per lo svolgimento dell'attività politica. Beh, insomma, non è poco. Se vuole le posso documentare come sono tutte ampiamente spese, sia i 5.000 per se uno viene a Roma e ha, come io per esempio ho una casa, 1.500 cioè a lei quanti soldi restano in tasca? A me, come netto di retribuzione? Netto, sì. Intorno ai 4.000. No, beh, su 15.000, 4.000 non è possibile. Vuole che glieli documenti, Cruciani? No, ma 4.000 su 15.000, e quante spese ha? Glielo stavo spiegando. Ho 1.500 euro dell'appartamento. Sì. Ok? Sì. 500 euro tra spese di pulizie, lavanderia, manutenzione minima dell'appartamento. Poi ovviamente c'è quelli di casa mia a Milano. Ok? Sì. Poi e siamo a 2.000. Sì. Ok? Ho circa 500 euro fisse di telefono che ci paghiamo noi. E siamo a 2.500. D'accordo? Sì. Ho 1.000.000 di euro di ammortamento auto e benzina per i viaggi che faccio in tutta Italia per recarmi a parlare dove mi chiedono di intervenire. E ho una 500, 1.200 di cilindrata. E siamo a 3.000. Ok? Sì, adesso sull'ammortamento si può discutere comunque. Perché si può discutere? Non l'avrei comprata, scusi, ecco, Cruciani, non è un'altra Milano. Vabbè, va bene, poi. Ecco, come si può discutere? La macchina aziendale non la calcola? Poi? Un dirigente aziendale, tutte queste cose, ce l'ha dall'azienda. Sì. Un deputato, no.